e cammina per ogni umana sorte. Ecco, già mi avvicina all'ora della morte, e forse pria che l'ultima mia strofa sia finita, ma non è cera e le carnefice la fine della vita. Via, strofe ultima mea, con il cordone alla tua poeta, e la sola parola teia. Mentre tu vivi da me, scorri dal cuore.